A un anno di distanza dalla storica decisione che portò il governo italiano di allora a schierarsi con gli alleati della NATO nel progetto di spezzare una volta per tutte le reni alla Jugoslavia, facendo segnare un progresso tanto significativo al prestigio e alla credibilità internazionale del paese, sembra che l'opinione pubblica abbia le idee ancora confuse. Avrete preso nota anche voi, immagino, dei risultati del sondaggio commissionato da Radio Popolare, un'agenzia specializzata, e ammetterete che sono, per così dire, sconcertanti. Permettetemi di riassumervi a volo d'uccello. Se il 57,4 del campione resta tutto sommato favorevole a quella scelta, però allora la percentuale era del 79 e gli incerti sono passati dal 4 all'11%, e sui motivi per cui la decisione è stata presa e sui risultati cui essa ha portato c'è molta meno sicurezza, e al 23% sembra di ricordare che intervenimmo per restaurare la pace nella regione, o più espressamente al 17% per difendere gli albanesi. Ma il 19% parla di un non meglio precisato motivo economico, l'11,4 invoca la asserita necessità di instaurare un nuovo ordine nei Balcani, e il 3,6 è addirittura convinto dal fatto che il problema fosse quello di fare le scarpe alla Russia. Quanto agli effetti ottenuti, se c'è un 25% che pensa ancora che sia stato impedito un genocidio, e un 17,3% di ottimisti che pensano che sia stata portata la pace in quella regione, c'è un bel 19,7% di scettici, per cui essi i risultati si limitano all'insediamento in zona delle truppe NATO, e un impressionante 27,4% che dei risultati, in un senso o nell'altro, non riesce a vederne nessuno. D'altro canto, un mucchio di gente non sa neanche chi combatteva contro chi. Il 20,3% degli interpellati sembra convinto che dalle parti in causa ci fossero anche i croati, e il 10% ci aggiunge senza fiatare i bosniaci. Insomma, ce n'è quanto basta perché i colleghi che hanno presentato questi dati agli ascoltatori ne concludano che sugli avvenimenti di appena un anno fa l'opinione pubblica ha compiuto un'opera imponente di rimozione. Personalmente mi trovo del tutto d'accordo con loro, anzi tenderei ad allargare la diagnosi osservando che allo sforzo di rimuovere quanto più rimuovere si poteva hanno volonterosamente contribuito parecchi operatori dell'informazione che si sono affrettati a dimenticare tutto quello che allora avevano avuto il coraggio di scrivere. Ma quella di rimuovere con cura le spiacevolezze nel nostro paese è una pratica tanto diffusa che non ci si può stupire se sia stata adottata a unanimità di fronte a un evento come la guerra. E la guerra, lo sappiamo, invoca la rimozione, si fonda sulla rimozione. Alla guerra preferiscono non pensare neanche quelli che ne propugnano sulla pelle degli altri inderogabili necessità. E la guerra è una faccenda sporca e feroce, perché al netto di tutte le chiacchiere si riduce allo sforzo di ammazzare quanti più membri si può della comunità avversa, in modo che i sopravvissuti, temendo di finire a loro volta ammazzati, acconsentano a fare ciò che si vuole che facciano, e capirete che questa non è un'attività su cui oggi si desideri dilungarsi. Del numero dei nemici ammazzati potevano vantarsi una volta tipi come Attila o Gengis Khan, personaggi forse sgradevoli ma non privi di una certa loro coerenza ideologica. Non possono certo farlo i flebili accattivanti bugiardi che formano oggi al governo o all'opposizione la nostra classe politica. Non per niente costoro avevano trovato un certo numero di reggicoda disposti a far carte false pur dimostrare che i bombardamenti sulla Jugoslavia non erano un atto di guerra ma qualcosa d'altro. Io e Felice ne abbiamo parlato e scritto allora, ma oggi lasciamoli pure perdere. Il sondaggio di Radio Popolare naturalmente riguardava i semplici cittadini e poneva loro delle domande specifiche. Non poteva così registrare quella che è stata probabilmente la rimozione più grave, perché nessuno gliel'ha chiesto. Il fatto è che quasi tutti, governanti e governati, sembrano aver dimenticato l'affermazione a cui si era dato tanto rilievo, per cui una necessità tanto sgradevole si dichiarava da divenire soltanto in nome dei diritti civili violati e della tolleranza etnica e del rifiuto delle discriminazioni. Che fossero tutte menzogne lo si poteva capire anche allora con un minimo di sforzo, ma adesso ne abbiamo in un certo senso la prova, e non solo grazie ai sondaggi. Non so se avete notato come il nostro paese sia diventato in un anno meno tollerante e molto meno civile. Pensate, tanto per fare un esempio, alla stolida ferocia dei recenti episodi d'espulsione a danno dei Rom. alla faccia truce con le quali le più varie sforze dell'ordine, le autorità più autostentatamente benigne si sono scagliate contro degli innocui frequentatori abusivi dell'estrema periferia del nostro povero benessere. I rom d'altronde sono le vittime tipico dell'odio etnico, lo sono nel Kosovo felicemente liberato e restituito alla democrazia della NATO, e non si vede perché non debbano esserlo nei paesi dei democratici liberatori. La crudeltà della guerra si manifesta sempre in due sensi: colpisce chi la subisce e corrompe chi la fa. E contro questa inesorabile legge non c'è rimozione che tenga.